Stai lontana da sto cuore, a te volo co pensiero, niente voglia, niente spera, ca tenerti sempre a fianco a me. Si sicure chi sta amore, come so sicure te, oi vita mia, oi cuore, chi sto cuore, si sta tuo primo amore, e o prima e l'ultimo sarai per me. Quanta notte non ti vedo, non ti sento in tasti braccia, non ti vaso che sta faccia, non ti stregna forte in braccia a me. Ma se t'anna ma sti suona, ma fai chiagnere per te. Oi vita mia, oi core, chi sto core, si sta tuo primo amore, e o prima e l'ultima sarai per me. Scrivo sempre sta contenta, io non penso che a te sola, un pensiero mi consola, che tu pensi sulla mente a me. A più belle tutte belle, non è mai più belle te. Oi vita mia, oi core, e chi sto core si sta tuo primo amore, e o prima e l'ultima sarai per me. Oi vita mia, oi core, chi sto core si sta tuo primo amore, e o prima e l'ultima sarai per me.